dove gli angeli esitano. Incontri tra sacro e musica elettronica di Emanuele Pappalardo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Emanuele Pappalardo ed eccoci al terzo incontro di questo ciclo di trasmissioni nel corso del quale stiamo riflettendo sulle possibili interazioni tra sacro e musica elettronica. E ragioniamo intorno a questo tema sia con parole ovviamente, sia di chi vi sta parlando, ma anche con interviste e soprattutto con esempi musicali di lavori di autori che si confrontano con l'elaborazione musicale di un testo sacro mediante l'uso delle tecnologie più o meno recenti. In questo incontro vorrei presentarvi, anzi forse sarebbe più corretto dire ripresentarvi, un progetto che fu realizzato nel 1998 e presentato proprio nella sede della Radio Vaticana il 30 settembre di quell'anno. Sono certo che chi ci sta ascoltando sarà rimasto quantomeno incuriosito da questo strano connubio tra Radio Vaticana, musica elettronica e sacro. E in effetti ha tutte le ragioni per esserlo. Ma andiamo con ordine. Nel 1998 Marco Di Battista, dei programmi musicali della Radio Vaticana, ebbe un'interessante idea che viene poi effettivamente realizzata. Invitare quattro compositori che avessero familiarità con la tecnologia informatica a confrontarsi con testi sacri che avessero al centro la figura di Maria. Il progetto si chiamava Ave Maria, quattro proposte di musica elettronica per pregare nel 2000. Non vorrei aggiungere altro al momento, ma proporvi l'intervento del suo ideatore e curatore, Marco Di Battista, che ci spiega in sintesi le linee guida del progetto. Il progetto di costruire quattro composizioni sul tema dell'Ave Maria nasce nel 1998, basandosi sulla forte impronta mariana del pontificato di Giovanni Paolo II. In particolare si pensava a documenti come l'enciclica Redemptoris Mater oppure la lettera apostolica Mulieris Dignitatem. Dal punto di vista musicale, la scelta della musica elettronica era dettata proprio dal fatto che la musica elettronica veniva ritenuta più adatta alla trasmissione radiofonica in generale, e in particolare i compositori che si occupano di musica elettronica sono i compositori che sono più attenti alle diverse frequenze da mettere o da omettere all'interno di una composizione che poi debba sfidare l'ascolto radiofonico. Infatti le quattro composizioni sono state eseguite in prima esecuzione assoluta proprio per la radio nell'ottobre del 1998. I quattro compositori scelti per questo esperimento furono Laura Bianchini, Michelangelo Lupone, Edoardo Carlo Natoli ed Emanuele Pappalardo, proprio perché si trattava di compositori dal linguaggio molto differente l'uno dall'altro, ma che nello stesso tempo avevano la caratteristica di essere particolarmente interessati alla musica elettronica ed essere quindi protagonisti della scena elettronica italiana. Dal punto di vista lavorativo procedemmo su un doppio binario: da una parte la tradizione musicale dell'Ave Maria e quindi con l'ascolto dal canto gregoriano ai tempi nostri di varie composizioni sul tema dell'Ave Maria. Dall'altro lavorammo dal punto di vista invece teorico, partendo, oltre che ovviamente dal testo dell'Ave Maria, dai paragrafi che il Catechismo della Chiesa Cattolica ha dedicato alla Madonna. Quindi un doppio binario: da una parte la questione musicale, dall'altra quella teorica, che assolutamente nel caso della musica sacra non possono essere mai disgiunte. Il tentativo allora non fu quello di destinare queste Ave Marie alla liturgia, piuttosto si trattava di trovare un modo devozionale moderno sul testo dell'Ave Maria. Naturalmente un po' l'idea era quella di sviluppare in seguito il progetto e di vedere fino a che punto si potesse arrivare nel campo della musica elettronica rispetto alla, appunto, alla parte devozionale e per arrivare poi in un secondo momento alla parte liturgica. In realtà poi il progetto non ebbe il seguito che ci aspettavamo e quindi finì l'esperienza nel 1998. Così dunque Marco Di Battista con estrema chiarezza ci ha esposto le linee guida che lo hanno portato a ideare nel 1998 questo originale progetto. Di Battista conclude dicendo che era previsto un seguito e un approfondimento. Dare un seguito al progetto proseguendo la sperimentazione utilizzando altri testi e un approfondimento tentando di spingersi sul terreno quanto mai delicato dell'utilizzo nella liturgia di composizioni musicali che facciano uso di tecnologie digitali per l'elaborazione del suono. Vedremo che anche se la Radio Vaticana non ha portato avanti il progetto, segnali più che interessanti sono invece arrivati qualche anno più tardi da sperimentazioni tuttora in atto nella Curia milanese. Direi che è ora di ascoltare qualche esempio musicale e lo facciamo con un estratto dalla parte iniziale di Canto di Madre di Michelangelo Lupone. Era un estratto da Canto di Madre di Michelangelo Lupone, un lavoro creato nel 1998 per il progetto della Radio Vaticana a cura di Marco Di Battista, Ave Maria, quattro proposte di musica elettronica per pregare nel 2000. A Michelangelo Lupone ho chiesto qualche riflessione sul progetto e sul suo lavoro in particolare. Riflessione a cui farò seguire, senza soluzione di continuità, un altro breve estratto dalla parte conclusiva del suo lavoro, Canto di Madre. Sono rimasto, come dire, colpito di, prima di tutto della richiesta, insolita per il tipo di approccio da me avuto sulla musica, ma proprio per questo però è estremamente stimolante perché mi ha posto di fronte allo studio anche di aspetti che per spiritualità, per contenuto espressivo, appunto, si ponevano in modo del tutto nuovo per me. La suggestione è giunta dall'ascolto di un canto palestinese, chiaramente poi è stato semplicemente un pretesto per me, poiché realizzazione ho utilizzato degli utensili così concettuali e tecnologici che erano in quel momento veramente molto presenti alla mia attenzione. Ho utilizzato un modello fisico della corda. Questo modello ho poi lavorato affinché potesse trasformarsi in suono assimilabile, comparabile con quello di una voce umana, in particolare di una donna, e questa lenta, progressiva trasformazione porta poi il brano agli ultimi istanti in cui una voce reale di donna, che è quella di Silvia Schiavoni, pronuncia questa parola determinante, importantissima, che è madre. Il rapporto con un testo sacro è un momento anche di importante per fare il punto con se stessi, una visitazione di quello che è proprio bagaglio, per me anche educativo, e al tempo stesso proprio su questo un'esperienza critica, un rinnovamento del giudizio a partire da quelle possibilità che la musica mi dà in termini di espressione. Questo devo dire che ha mutato sicuramente per quell'esperienza alcuni aspetti del linguaggio. Quanto poi io sia riuscito a rendere, diciamo, il testo sacro e poter così donare anche all'esterno l'emozione che da me vissuta, questo è tutto da vedere. Posso soltanto dire che l'esperienza però è un'esperienza profonda e non ultimo anche ravvisa dentro di me anche il rapporto, per esempio, con la mia madre diretta, quella fisica. Era un estratto dalla parte conclusiva di Canto di Madre di Michelangelo Lupone, un lavoro creato nel 1998 per il progetto della Radio Vaticana a cura di Marco Di Battista, Ave Maria, quattro proposte di musica elettronica per pregare nel 2000. Quando nel 98 appunto Marco Di Battista ebbe l'idea di invitare anche chi vi sta parlando a partecipare a questo progetto sul tema della figura di Maria nell'ambito delle Sacre Scritture, ha trovato in me un terreno fertile, in quanto da tempo mi interessavo e continuo a interessarmi di relazione tra musica sacra e bisogni espressivi del nostro tempo. Avevo da poco concretizzato l'idea del concerto Canto Gregoriano e Musica Elettronica, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, nel quale si ponevano a diretto contatto brani tratti dalla tradizione gregoriana con la loro versione, diciamo, in chiave elettronica. Nel comporre Canto a Maria, questo è il titolo che ho dato al mio lavoro, ho pensato sarebbe stato interessante tentare di realizzare una commistione linguistica, una sorta di modulazione culturale tra numerose realtà culturali e musicali molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio. Ecco quindi che nel 98 ho iniziato un lungo e paziente lavoro di ricerca, di ascolto e registrazione di testi e musiche riguardanti sia l'Annunciazione sia la Passione, i due momenti salienti all'interno del Nuovo Testamento nei quali la figura di Maria svolge un ruolo centrale. Testi, dicevo, ma anche musica tratti dalle liturgie cristiane di rito etiopico, maronita e latino. I testi vengono intonati all'interno del lavoro nelle loro lingue originali, l'etiopico, il libanese, l'arabo e il latino. Tutta la prima parte di Canto a Maria riguarda il tema dell'Annunciazione, mentre la seconda parte riguarda il tema della Passione. Queste le linee guida essenziali della genesi del lavoro, ma prima di aggiungere qualche altra informazione vi propongo l'ascolto della prima parte di Canto a Maria. ضيعة صغيري من سيدي كان في صبي الله معها وعطيها نعمة رحيمة ندرت عمرها من أول عمرها تبقى عذرة هالحلوة العذرة زهرة زنبق مخفية عاشق الفي هللويا عذرة وقول ماضي Benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu, benedicta tu Era la prima parte di Canto a Maria, lavoro creato nel 1998 per il progetto della Radio Vaticana a cura di Marco Di Battista, Ave Maria, quattro proposte di musica elettronica per pregare nel 2000. Gli interpreti erano, per le parti in latino, Letizia Butterin, Maurizio Verde e il coro di voci bianche dell'Arcum, diretto da Paolo Lucci. Per la parte in etiopico, Abraham Avju e Miled Tarabai per la parte in lingua libanese. La consulenza teologica è stata data dal professor Pasquale Troia all'autore del brano, Emanuele Pappalardo, che vi sta parlando in questo momento dai microfoni della Radio Vaticana. Questa prima parte del lavoro ha tentato di realizzare una commistione linguistica, una modulazione culturali tra realtà culturali e musicali molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio, e di filtrarle attraverso elaborazioni digitali che siano tuttavia sempre rispettose di una riconoscibilità della fonte originale. Oltre ai contributi vocali degli interpreti che vi ho elencato poco fa, ve ne sono per la verità anche altri, questi sì poco riconoscibili, tratti da registrazioni da me effettuate durante celebrazioni liturgiche di rito etiopico e maronita. Anche a distanza di anni ricordo con enorme piacere quelle mattinate domenicali a Roma, trascorse facendo registrazioni in varie chiese nelle quali si celebravano queste messe, tra la curiosità dei fedeli che non capivano realmente cosa stessi facendo. La seconda parte di Canto a Maria è centrata sul tema della passione ed inizia con un canto in lingua araba che ha per tema centrale Maria ai piedi della croce, che in prima persona piange per il figlio morto. Per la restante parte del lavoro ascolterete alcuni versi tratti dallo Stabat Mater della nostra cultura, che vengono intonati su una melodia elaborata a partire da quella originale, e il tutto viene ulteriormente elaborato con strumenti digitali. In questa seconda parte ho inserito anche dei riferimenti ai canti del Venerdì Santo della nostra tradizione popolare. Gli interpreti sono Miled Tarabai, voce e oud, il coro di voci bianche dell'Arcum diretto da Paolo Lucci e Silvia Schiavoni per l'intera parte dedicata allo Stabat Mater. L'autore è Emanuele Pappalardo, che vi sta parlando dai microfoni della Radio Vaticana e che vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Wahidi ilahi anthuru ba'dak siniya 'ala al-ham. وأنحاز وحدي أعدد بعدك على صور الدم وحيدي إلهي أأنثر بعدك سني على الهم وأنحاز وحدي أعدد أعدد بعدك على صور الدم dolorosa.